andò a prendere la cassa e non so che fine abbia fatto la tarantola. Si è ammacciata, sparita, perché entrano loro. D'estate la situazione è stata aperta, anche se chiudi le persiane, ma entrano lo stesso. Ma ogni bestia di tarantola. E quando vanno a caccia di ragni, molte ragni e cose, è le zanzare. Lo so, ci mangiano gli insetti. Vabbè, tu questo da di me, via, mi sta attento. Ma vabbè, diciamo che una puntata di app ci può anche rimanere. E appunto per quello, noi siamo affetti da quello, basta una puntata di app, se non sei di sangue blu, di giallo, sei bruttito. Capito? Sei bruttito. Che la zecca, mamma mia, cioè sono insetti che ti fanno morire, ti fanno più fatti di gribba subito, bisogna stare attento. Adesso per esempio la zecca, c'era una pronto soccorso fatta arrivare, sono circuito. Ma che la zecca è così, lo stesso, ma la zecca è difficile, si attacca all'uomo, molto molto difficile. Che te l'ha detto mica a te? Te lo dico. Sembra che ne ho trovato zecche giù in campagna, ti servono anche i pantaloni. Non se non si buone a pelle, la pizza. Se dici che a pelle ok, va bene, però si attacca la zecca, non ne ha ucciso di persona la zecca. Di sotto quando vai in campagna si attaccano alle palle di sotto. Ero un tipo lo stesso dovevo, quando stavo lavorando lì ai dimbici scendendo a prendere la cosa a Maria di Sossoli. Stavo lavorando lì e c'era il custode e ci ha raccontato lui questo qua. C'era sempre la febbre alta, c'era che siamo un piluso, un pittore, no? Una scimmia a Bari. E non c'era con la zecca attaccata. L'hanno salvato per il culo. Non so, a pelle, non è che sia, anche se non ho fatto cose, a pelle, è che, anche se quando l'ho fatto io, in macchina per dire, quando scendevo in campagna due volte, perché siccome c'era la parte dei miei mettere i pantaloni chiari, se vede il bianco la zecca, non prende anche le scarpe, sale in summe, se invece la roba scura non trovi nulla. E poi va a mettere il pelo, è maledetto, è maledetto. Vabbè, bisogna stare attenti pum pum. Allora io la prossima volta ho lavorato lì, siccome ci avevamo una barracca all'interno dove mettevamo tutta l'attrezzatura, perché abbiamo fatto un intento di illuminazione lì, nuovo. Una volta poi vabbè mi avevano bloccato perché aveva bloccato dei lavori. Allora sono rientrato, non so, dopo mi ricordo, un mese, due mesi, non mi ricordo, mi aveva richiamato. E c'era la leva un po' alta. E allora mi fa l'operaio, che come di mio fratello, di Carletto. Mi fa vai, prendi la macchina, sali su e prendi due fari già pronti, perché erano già pronti da... eravamo già preparati, mi sono mancava altro materiale, allora ci aveva fermato. Che tu sai quanto me. E noi siamo già un'erba un po' altina, apro la barracca, prendo il fare. Beh, non lo so, sembra che cosa sapevo. Cazzo, mi guardo, ed ero tutto, ero in jeans, tutto pieno di zecca, di vita minorita. C'erano tutti i pantaloni pieni. Mi sono quasi un caduto. Però... e beh, già non grido, non ti ripeti così salire, perché il pantalone chiaro guarda è una cosa micidiale, quando c'è le scarpe chiare. Avanti, Mac. Buonasera Pompone, buonasera anche a te Luca. Ciao a tu. Buonasera. Buonasera a tutti, stavo ascoltando. Adesso entro a salutare. E stiamo parlando di truppe di zecche. questo discorso. Fortuna a me non mi se ne è attaccata neanche una. Poi non si fa la rotta, tu, gridilo Pupu, col ketchup. Capito che non è mai messo per 4 ore e ti si attaccano le balle. Che bella, quella mi sono scherzato. Prima c'è due tizi immunica che me lo possono... non possono giurare, mi hanno visto con le vespe intanto uscendo dalla Platta Mora. Aveva mai uscito con le entrare a fare il bagno e uscire con le vespe attaccate, perché ho fatto la cazzata che mettermi la crema quel giorno, il Diabolex, che vasellina, e poco di attiva le vespe, è come mettere la bistecca qui sopra un piatto. Attaccava le palline, là, ti sei attaccata. Mi si è attaccato le palle, sì, avevo una lì, una davanti a me, l'altra dietro, quindi c'era una buona compagnia, intanto usciva, ma non mi pungevano, pungevano agli altri, come quando tu pigli la bistecca, ti adorano, o se tu le tocchi con mano ti si giri. Sono cose che succedono, soprattutto la zecca è fea, La zecca è molto brutta, cioè se ti bizzicchetti ti fa venire la febbre, tocca andare all'ospedale perché stai malissimo tu. Un attimino, che sto guardando roba al televideo. Eia. La zecca meno male non l'avevo avuto io, ma... una volta sono capitato quella delle cose, delle api, e quindi era una cosa, non mi sono voluto vestire. Minchia, fa roba amara, Pomponio, ma meglio ti sto arrivando il segnale? No, sei più basso. Posso per la zona tua? Lo sto dicendo, per me sei più basso di prima. QRM alto, QRM c'è? No. Meglio un po' sì. Sa zecca. Oh, a me non mi è mai successo, grazie a Dio, che mi si sia attaccata a zecca. Meno male. Vedi, per troppa cosa è mara la zecca. Ti pugni, sì. A Puglia. Sai che crea le matite ai cani, sì. Non mi fa morire, però gli crea le matite. Non ti ho capito questo passaggio perché c'è un abbattimento. Quando la zecca il cane non mi fa morire, gli crea solo la delle matite e basta. Oh, non riesco a capirti, c'è un abbattimento. Sì, ti fa abbattimento. Niente. C'ho un appartamento nel canale vicino. Non sono io quello. Faccio il QRM alto, capo, più l'appartamento. No. Non riesco a capirti perché ho fatto lo smitter, va indietro. Alessio. sentirci ancora. Con quella contena è passata a 9. Certo. 15 anni. Cioè, giù da giullo, se attaccavo questa qua e uscivo Santiago 1, ora Santiago 9, non è poco, non bello. Lo vediamo. Da Porto Torres, come ti senti? Non c'è il buco, lì capisci se ti puoi la basetta. Con la basetta fa meno massa. Se la metti senza basetta la massa è ampia. Ecco. Buonasera, Natalino Alfa 1 in barra mobile. Ciao Natalino. Ciao. Smetti, va. A dove sei? Io la telecamera, sto salendo a casa, dai. Direi a capo. Per Paolo è tutto contento per l'antenna. Oh. E io. Detto che c'è meglio dell'altro. E beh, te credo. Natali, la cosa da Santiago 4, con tu non me la metto, a Santiago 9 va da Daniele, invece giù da Giulia, da Santiago 1, a Santiago, con questa, stormo, con quella invece vado 9. La casa messa con la base magnetica che hai visto me, messa così sulla ringhiera, funziona meglio di questa, te puoi immaginare le cose che tu sai. Se te lo sto dicendo, se te la metti in macchina è una bomba quell'antenna. E ci servono anche per quello, carissimo. Che te se vende così in macchina, oiuia. Basetta dello buscarte. Siamo di massa della cartozza. Capito una ferita, la basetta del buscanta io. Prima che ce l'avevo, non c'era problema. Dovrei avere io. Con la basetta non c'era problema. Comunque quell'antenna è una bomba, io gliel'ho detto. In macchina rende pure di più. Ma non posso variare, carta che funziona la lampada così. Quella base magnetica, la ringhiera funziona meglio di questa qua. Ma ha fatto anche cazzare stasera, Busso, e sono incazzato, perché deve funzionare meglio questa, io vedo che è più alta pure, catalizza attaccata anche lì sotto la ringhiera funziona meglio. No, non ci ho capito niente. Ah, quella è caricata. Vai. Dal tetto. Ma se tu non la fai uscire dal tetto e la piatti come piazzata, ti ritorna l'RF pure addosso. Capito là? È un altro sistema di radiazione che ha. Ma si arrende che è una bomba quell'antenna, anche con la base magnetica, te lo sto dicendo perché c'ha il piano riflettente della cartozza, no? La macchina arrende anche di più. Speriamo che sia così in macchina, vabbè, siamo bene, adesso appena che mi sento bene, appena, se domani mi sento bene la piazza, vediamo. E se sto dicendo, ti trovo. Parta lì. Poi. In macchina, sì. Eia. E Antonio, sono, mi hai capito, sì. Eia. Sono in macchina, sto andando a casa, perché non si nota il QSB? Che acqua, qua ti sento bene. Io, al 100%. Che vagava. Dov'è? Non riprende nessuno. E io. Che infatti come ne togli l'acqua, tanto non rende un cavolo, quella che c'è in macchina non rende niente. Ci metti quella, la rosmetri e fatto io. Oh, quella, beh, quella lì, dove c'è quella lì? Ne tolgo quella lì, no? E ci metto questa basetta con questa qua. Tanto lì c'è l'RG58AU, l'ho visto anche cosa. E poi è giusto, giusto il cavo, fatto bene quello lì. Ci metto soltanto questa qua con quell'antenna. E vediamo se va lì. E beh. Deve per forza andare bene. Però la politica, al limite, la rimetto sulla base magnetica. macchina di più che la base magnifica. Questo carro, capito, esce bene, non c'è problema, capito, l'hai, che fa? Quella lì, pompa, come questa che sto usando io adesso? E non ce l'ho in macchina io. E quella lì pompa come questa? Sì, ne sono convinto perché me l'hanno detto tutti quanti stasera, anche Luca mi ha detto come mai sia il 920. Beh, sto usando questa antenna, sono stato meravigliato, anche stamattina, ti ricordi quando abbiamo fatto la prova con Gigi, è uscita subito bene, chiaro, mi ha detto sì, vieni di capo, ti sento. E sono già arrivato meravigliato lì che era messa così, era una bella meglio. Poi stasera quando sono salito a casa, cioè stamattina, l'ho buttata lì, ho fatto le prove, un bombon. Te l'ho detto che funzionava, perché io ti sentivo in saturazione. Quando sei in saturazione da vicino vuol dire sta togliendo a potenza, capito? E io me ne sono subito accorto, vai, già va bene che va, quindi. No, ma a me mi ha dato solo in cazzo perché porca miseria, questa qua una volta di 2 metri e cosa, deve funzionare bene, invece funziona più bene un antennino che un'antenna così. Passa prima lì, se no guarda, va a noi. Ehi, ma oggi sono uscito appena, ancora le gambe no, sono, non sono io, ecco. Stiamo piano, vedi, ti rimetti a posto. Ma stasera sono così, oltre non sai già, c'ho capogiri. Avviso. Ma non c'è la debolezza. Magari anche un po' di debolezza. Come ti sei inchiato magari? No, non lo so, c'ho questo sbandamento. Adesso vediamo domani di cosa mi dice la dottoressa. Dovrà mandarmi anche a fare di nuovo la lastra per vedere com'è. Ehi, guarda, fatti vedere subito il diesel. Domani mattina ci devo andare praticamente domani mattina per vedere com'era l'esito di quelle analisi domani gli faccio una battuta, ma a lavorare posso rientrare, fammi qui di donna. Perché non si va a prendere la responsabilità. Cazzo, già mi è cucciato a me il giorno. È stata quasi da una sciocchezza, da un raffreddore schifoso, dove sono passato le mille cose, la voce, questi dolori a tutta la persona, non so neanche io più cosa ho. Faccio la mia cosa per l'orgoglio, ricoveromi. È esagerato. Ah, guarda, sto parlando però, cos'è c'ho la testa? Con che c'ho frastuono dentro, sento come te, non lo so, rimbombarmi. Eia, già ti capisco, ma vai, dai, c'è debolezza, vai, passa, dove non c'è più nulla. Speriamo, adesso vediamo domani cosa, e torniamo fuori, e chi lo sa. Oh, ti sei svoltato, hai fatto cose in più che non facevi i giorni scorsi. Non ho fatto niente di straordinario, sono soltanto uscito stamattina un paio d'ore e basta, ma ho fatto dalla macchina così, sono sceso un pochettino dalla macchina, ma niente di più. Eia, e non c'avevi niente stamattina? No, non è che non ci avessi niente, è sempre questo coso alle gambe, capito, sempre questo coso alle gambe, il dolore al petto, ma più di altro non avevo. Cioè, magari, vedi un po' domani, dillo al medico. Vabbè, adesso domani vediamo cosa ne tira fuori. Eia, già ne riprendi. Eia. E infatti è meglio che si faccia vedere, perché non si sa mai, meglio che non sia nulla, non si sa mai. E diciamo che poi tutti questi che stanno prendendo le influenze, si stanno prendendo il virus, si stanno prendendo anche il focolaio, questo e quell'altro. Cioè, guarda che è brutta l'influenza di quest'anno, eh. E cambiamo piano, da voi gira, Specie, se si fa lavorare quando si ha l'influenza, non si esce. E allora, ancora peggio. Io già ne so qualcosa, sono andato con la febbre. A 38 la mattina e sono dovuto tornare a casa di cose, avevo la febbre più di 40. Peggio. Se fossi andato a casa la mattina, che ho visto, mi sono fatto la temperatura, magari non sarebbe successo tutto questo trambusto. Vabbè, mi avessi avuto un po' molto, senza sapere, senza farla poi. Si trasforma nel liquido uguale. Cosa già hai sentito? A basso volume? Ho detto. Mi senti adesso? E adesso sì. E se tu la trascuri, praticamente ti metto, se non fossi andato a farmi vedere non sarebbe stato il trambusto. Ma se tu lo vuoi farti vedere, non ti curi, ti può vedere il liquido dei polmoni e ci rimani. E poi nascono tutto un susseguirsi di cose e va sempre a peggiorare, quello sì. allora conviene così, va. Ma va tanto. Dimino. 4 mesi circa. No, non è stato tanto. Stavo ascoltando quei dischi qua un poco fa, ma sono uno più bello dell'altro. Subito sei entrato ad ascoltarli, no? No, li ho tutti puliti a uno a uno, prima c'è stato nel copertino e poi mi sono fatto. E già sono bella. Buongiorno, facciamo una cosa. Che se capita? Vabbè. Avanti, Antoine, fai girare, dai, che io mi sento secondo. Mi intende, ehi, Antale, già ti sentiamo. Cavagava. Forte e chiaro. La macchina alla rovescia. Macchina alla rovescia. Cavagava. Siccome c'era cena, Antonio che stava cercando di sovramodularmi, non ce la fai, no? Ma stavo cambiando il microfono. Ma non ce la fai, però. Se non mi tolgo l'altra pure di nuovo, attacco l'altra e ti posso fare brutti figuri. Dita! Questa, no, Dani, Antonio, questo baracchino non riesce a farlo uscire bene, no? Ma lui, Antonio, non usa quello lì che ti avevo tu, Pierpa. Questo che sto usando io? Questo è già da adesso, lo usa Antonio. Questo qualche volta da qua lo usa. Dalla 48 usa, lui ce l'aveva 48. E ce l'aveva dalla 48 anch'io. Cava. Ria. E stava zuffando il microfono amplificato. C'è il DM1000 ma si scarica la batteria. Credo che abbia cambiato il microfono per quello. Perché avevo un innesco prima. Prova adesso, Antonio, a fare come. Cos'è che la batteria da caricare? E a me come mi senti da qua, Pierpa? Te io ti sento sempre bene. Ma qua adesso sono con l'omologato, mi sono in camera da letto, già lo sai. Ehi, io lo so già. E questo perché non è l'omologato? Ehi, sto dicendo, sono con un baracchino omologato, 3 watt da questo qui. Dove c'è l'antenna in sesto. Volevo sapere come sta Rivoli. Sì, sempre 9-10. Allora ce ne sei di pure. E lì la buia, la notte già si sente sempre bene. Era soltanto l'altra volta che tu insistevi che stavo uscendo bene, invece la buia andata a controllare e stavo uscendo con l'altra antenna. Senza antenna e tu. Una volta sono uscito col carico PC che mi hanno sentito lo stesso. E infatti, e tu dici che no, c'ho niente, allora, sia niente, certo, se lo conosce lo segnali, e almeno che non c'è un bella che cosa, non ne ha due, se qui sono quei 10. E cazzo. Cazzo, devo trovare uno che fa un motocarro, qualcosa per portare su 2 sali da 6 metri. Per fare il giochetto dell'antenna nuova. E così almeno mi diverto. Almeno questa la tiro giù, però non ce la butto. Allora cosa faccio? La prendo, la faccio a pezzi e la rimetto a posto. È una sfida che voglio fare. Devo riuscire a metterla a posto questa qui. Prova, tu ci dici. Io il segnale adesso meno male conosco tutti i Gianni. 9.30. Tu sei 9.10, Luca è 9.20, Daniele è 9 e poi altri anni. Ma io è già troppo che ti arrivo 9.10 con l'antenna così bassa e anche rotta. Hai visto che non c'è più questo circuito? e come imbatte l'antenna. Vabbè, comunque bisogna contare anche l'altezza, sì, su un monte, anche se sia un po' giù, ma si sempre su un monte, l'altezza conta tanto. Se magari avessi avuto quella stessa antenna, magari qua in basso non saresti scritto così. Anche quello se dipende dalla zona. Allora sai davvero che in basso in giocchi più mica, però cazzo lì è una zona tremenda. Ma fa un po' più da forte da lì. E tu quindi adesso Daniele nella zona dove è lui, qua io lo sento, lo vedo di segnale 9, ma senz'altro dentro città e anche di più, ho sentito che di più, ma nel mio, in questa mia antenna, in questa storma, arriva 9 qua e guarda un po' come è chiuso le parti, eppure esce bene lo stesso, perché lui è tornato a parte eppure esce bene con quell'antenna. E arriva a me 9 qua con questa antenna che non è granché. E quindi immagina di tu, già esce bene questa antenna. Infatti, sì, quell'antenna che è tu non è un granché, perché è piazzata come è piazzata. Tu prova a parlarci dell'altezza, voi mi diverue. Vabbè, sono d'accordo con te, quello senz'altro, e beh, a parte che c'è differenza di altezza e poi se lo metti sul tetto su un palo di 3 metri e già esci meno altezza, non sarà mai molto in alto, ma però diciamo che prende un po' tutto di più, senz'altro. Ma io sto dicendo che quella è quell'antenna che avete voi le mantova. E guarda che Daniele è chiuso, è puro esci, esci voce, vedi bene che di guadagno ne ha senz'altro di più anche se è in posto chiuso. Invece questo se è in posto chiuso rende quello che rende così come adesso. Io mi spero male, perché gli manca il proprio circuito a questa antenna, quindi è andata a farci sotto. Adesso vediamo di piazzare quella nuova e poi questa la prendiamo giù con calma e vediamo di aggiustarla. Perché se non riesco a aggiustarla me la tolgo il tutto il corpo e praticamente mi faccio una multibanda al posto di me. E quindi me la uso in diverso modo. Per esempio, se non sbaglio, Daniele mi ha detto che da lui sono 7. Tu mi sembra che mi dici sempre 8, così? Non ho capito. Cioè, da Daniele arrivo sempre 7. Tu mi sembra che mi ha detto sempre che arrivo 8, così? Quasi 9, sì. 8, quasi 9. All'inizio è 9, sì, da 8 e mezzo. L'antenna è libera, quella lì, la Storm 27, cambia dal giorno alla notte. E senz'altro sarà così, e comunque, adesso che non lo so, c'è anche un qualcosa che basta, cosa che voglio fare domani, chi sa la video, e appunto, intanto mi ha fatto la base magnetica, noi siamo già in giro, ci siamo appunto più buono. Gli abbiglianti vivi in vivo, e cosa vuoi che dica? Ma sta a fare i brodi. Qui arrivi 8 e mezzo. Tieni il controllo a me e vediamo un po' quanto mi arrivi. Se mi arrivi più forte vuol dire che ti abbiglianti per il severo. Io faccio lo stesso a prova, per vedere se l'antenna migliore è quella là oppure la posizione. A volte conta la posizione. Perché se tu la metti come deve essere piazzata, quella Storm 27 devi funzionare. A chi vuole ragione io gli va un'antenna così, come la tua, ed esce una bomba, fare un'antenna nonna. E invece, no, ed è anche lì distante da stare, eppure è bene. Lo so benissimo. Daniele, mi prendi. Sì, allora li prendo, vi saluto e. E mi caro a parte, bra. Altro che. Stai andando a dormire. Eia, che domattina. Andare anche dal medico domattina presto. E anch'io. Va bene, allora, buonanotte. Ci risentiamo tutto domani, se coincide. Eia. Va bene, saluto a tutti. Ciao Natale, ciao Antonio. Ciao Belpao, ciao Gianni se ci sei ancora, ci ascoltiamo le prossime. Riprendo io, va. Ciao Daniele, buon tutto, le prossime. Riprendi Belpao. Non so, Gianni è rientrato, Gianni. Non è rientrato ancora. Capito, io faccio la prova così, giusto per uno svizzero, lo voglio spostare. Lì dove ce l'ho appoggiata la base magnetica. E vediamo che cosa succede. Così è uno svizzero, mi voglio togliere per vedere se così come sto dicendo io o semplicemente forse se così funziona meglio qua, allora va bene. Ma senz'altro funziona meglio, Ma sta a provare, senza non nuoce di sviluppo. Intanto sono un paio di bullone da svettare e attiro la porta della rovella quella lì esattamente in quel punto e vediamo cosa succede, va? Fa. E poi non va se quel fatto giora vuol dire che quella là è una buona antenna e fa questa giora la richiesta dov'è? Adesso vediamo. Lavori chi sono male, se non giocare la pila stampo la macchina, era proprio pure della macchina, così come ti rendi. Eia che rende, se rende lì attaccata alla ringhiera, figurati in macchina che c'è il piano di mano. Vediamo, stiamo a vedere. Tu indiri casi del giro, no? Sono uscito che dovevo fare una commissione, e me ne sono tornato a casa adesso, ma abbiamo fatto adesso, ma sono tutto sdraiato. Già di senso, sì. Ah no, se te l'ho detto sono in camera da letto, già in orizzontale caro lì. Non ne dovrei fare, no. Perché quella di sopra Sarà la tua voce adesso. Che c'è adesso? No, ma a me non mi stai facendo niente. Che è la voce di attendere di giorno? Sono un bel cavolato, forse. Perché prima non riuscivo a farlo uscire, non so com'è, ma... Cioè? Non riesco a farla uscire bene questo campo, l'ho cambiata di posto, ma... Ce l'hai tolta dove era? Oh no, è sempre lì. E allora? A me è pari peggio. Ti pari peggio? Io non ti... Secondo me era il microfono che aveva la batteria scarica. Io ho provato, l'ho messo a caricare, ma non mi pare troppo. Sì, blu. Ascolta, fa una cosa, portalo qua questo baracchino, lo troviamo qua. Il baracchino sta andando bene. E allora? Il pianto antenna che no, secondo me non è andato bene. E forza, aggiungi questo gambo. La sera l'ho tutto svolto io, cioè ieri mattina quando è. L'ho tutto svolto io, era tutto quanto picchiato male, boh. Fate chi fa le gare su campo. Mi avete comprovato il piede, che sono tutti a posto, perché qua non mi convince. Ma secondo me non lo so, guardati, ma come sta uscendo la tua? Guardati. Bene, sto uscendo io come segnale, come tutto. Sette mi sei arrivato. Già va bene. Dovreste capirlo. No, neanche io, ma se sto bene, cosa faccio così. Adesso mi sono detto che poi sto bene, però quello che sta facendo il mio televisore prima non lo faccio. Appena, ma niente di particolare. Ma quello altro può essere il televisore, però, quindi non sai cosa fai domani, non adesso. Prendi un altro televisore, lo attacchi e mi sono fatto. Io sto pensando anche che si sta irradiando molto forte, per quello che lo fa. Ma quel televisore, però secondo me il tifoso che lo fa sempre è il tipo del televisore, perché qua non sta facendo niente. Guarda, prima non lo faceva, però era anche il tifoso l'antenna del televisore. Oggi adesso sta irradiando forte per quello che lo fa. Torra, è il televisore quello lì. Eccolo qua attaccato a questo lì che non annientavo. E invece gli altri televisori non lo fa. Quindi sono altri 5 televisori e non fate nulla in distruttivo di gran televisore. Non è una tariffa. Infatti vuol dire che non è protetto in ingresso e allora si becca tutta la mondezza. Sì, poi c'è il capo, è appoggiato praticamente, passa dietro la televisione, figurati. Evidentemente non è stato e fa quel giocoli. Se fa quel così, altrimenti non si spiega, ma domani non guardo io anche. Gianni, si è sparito. Sei sparito proprio. Dopo facciamo anche il QRM altissimo. Quello si è addormentato, alla faccia nostra, capito? So che caschi, ma sono un onnaggio però, eh. Si è addormentato, alla faccia nostra. Sì, allora Budia ha detto che si era allontanato un attimo. Si sta allontanando, si è girato la sua faccia allora. Evidentemente. L'ha pizzicato male, là. La via può illuminare. Oppure si è girato dall'altra parte e c'è una roba più interessante. Ecco, ma può anche essere. Può anche essere. Oh, yeah. dovrebbe... Me la prendi quell'antenna che è? Quell'antenna? Quella che ti hai comprato stamattina, che l'hai pagata 200 euro. Sì, 300 ne voglio adesso. E cazzo, tu sei troppo caro. Cazzo, immaginerei che... Cazzo, ma non lo posso mai a cazzo, che funziona. Funziona meglio, ho detto casa, chissà cosa, che dica che è predisposto, boh. Mi tiri delle lettere. Io 200 euro l'hai pagato e lui dico che va bene. Ah, vedi così. La macchina la vendi, ma... Quanto sarà questa antenna? Penso non l'ho misurata, ma sarà 1,10, 1,15, no? Infatti, adesso tutti dobbiamo pagare 200 euro per comprarci l'antenna precisa, quella di Pierpaolo, te l'immagini, bomboli? C'è Cristina, perché? E se non volessi da forte deve cacciare i soldi, c'è poco a fare, vero Pierpa? Io ho pagato 300. Tanto ma tu provata, insomma. Siamo qua. Domani la provo io da quella parte lì, la prima cosa che voglio fare è provare anche l'altra parte. Domani faccio un casino. Ma la provo. Funziona meglio tutto l'altro. Il sistema delle antenne. Cambio qua la stormo, prendo, la metto al posto dove era questa qua. Questa qua la metto dall'altra parte. Cazzo, non so, già la metto. Mamma mia. Ah, va, me la tutti niente. Ah, va, pigli un baruato, va, se un'altra... E la moto appena un'altra gamba in studio. Vediamo, sì. Tu sei troppo vicino, però. Vai, cosa vuole il baro tuo? Se no, più la moto se ne era pubblicamente in un barazzo. Mamma mia. Qua non lo posso variare io. Cioè, ma scusa, che cosa c'è? No, ti ho compreso ancora la sabata. Ma tu, secondo me ogni tanto vai. Dove no, sta cosa? Non lo posso variare che non me la posso punire sopra. Sotto. Cosa vai? Non vuoi bonifare? Prendi, la sacchi un pezzo di lenza e ci mandi dei palloni riempiti di idrogeno. E se ne sale da sola. E qua, cavolo, no, non lo posso proprio sopportare, che non ce la posso mettere giù. Quella capicciuria di merda che va bene, per carità. Lo facciamo un dipolo con un paio di palloni e lo facciamo salire. Che può fare? Io funziona. Sì, uno lo fa, si cazzo, di rubinare il bappazzo. Però funziona. Perché se tu fai un dipolo e lo fai salire su con i palloni. Natavi. Purtroppo bisogna accontentarci. Cava gava. Ce l'aveva potuta pure sopra. Oh, io. Non la c'è ancora. Sì, già sono qui. Avrei voluto avere una campagna come ce l'hai tu. Ma poi ti aveva fatto vedere cosa tutto già aveva butto sopra. Lo so. Già lo so già. Adesso devo entrare la motosega e faccio tutti gli stai, quindi rimane con tutte le palle, così mi faccio uno schiaffo proprio per l'antenna. Sono un bel palo alto alto, è vero. Chi mette? Chi mette? commentare da terra, no? Sì, mette un palo prima in terra, no? Grosso, con la cerniera, in modo che lo faccio ribaltabile. Capito? E faccio sinistra più sinistra. Capito? Gli piace l'antenna. Lo allungo e poi lo tiro su. Già si fa fare l'asciuga. Certamente. Oh. Guarda com'è il segnale adesso. Prova. 1 del 3, 1 del 3. 9. Prima la manetta e si incendia. Si televisione. No, una volta c'avevo una, diciamo, una boomerang, no? Tanto facevo TV in tutta la zona, ma perché erano anche un po' i televisori, le antenne tutte messe male, no? Tanto facevo TV in tutta l'antenna. Se ne è venuto il Dino, dice, guarda che sento la tua voce nella mia televisione, come fai a entrare nella televisione? E io, niente, ma tu perché parlo ogni tanto a voce troppo alta? E allora bacio i monti. Ma tu sei lì e sto facendo un corso per presentatore TV. Era proprio un bel po', era un periodo proprio, era di febbraio, ma era un periodo che era, il festival di Sanremo, entrava il primo canale, sparato entravo. E un amico mio già l'ha fatta bella, sono di Usula. Cosa fa? Come che sentimi con figlio di Guarzitano, ha preso e ha mandato in onda su Rai 1 in domenica un film fonografico su Rai 1 e salito e ci ha messo a patata di tutto la Rai. C'è un sacco, è anche difficile fare così. Fino in domani vi dica mia vecchia quelli. Sarebbe ultimo, io l'avrei voluto fare con una persona che s'antica. E vabbè, ma bisogna... è proprio alla Rai, cazzo. È una cosa, cazzo. Se trovano, sì, guarda, che ci buttano le chiavi in mare. Senti, io credo, stai arrecando un danno grosso. Non sai cosa avrei voluto fare io, nella televisione di una persona che conosco io, no? Che è tutta santicca, ecco, gli avrei voluto fare entrare solo in quella televisione, non so se esista qualche cosa di frequenza a distanza che puoi mettere un DVD e mandare il segnale della televisione, e se fosse stato gli avrei voluto fare come scherzo, ma proprio qua, perché questa cosa ne scende proprio dalle balle. A questo amico mio bisogna dirlo, però non penso, perché il segnale del ripetitore che arriva, capito, tu devi praticamente fare abbassamento al ripetitore per poterli entrare, ma la vedono tutti in pornografico, non solo lì. Peccato, te pure, sarebbe stato un ottimo scherzo che avrei voluto fare a questa persona, sarebbe stato un bello scherzo, cazzo di male, ti immagino, sconto a bagliare, tanto arrivati giù in casa, cazzo animati, vai a fare una cosa del genere. Sì, certo. Adesso, buongiorno a tutti, oggi vi mandiamo in onda un cartone animato di Moana Food. Sarebbe stato un ottimo scherzo. Sì, con la telecamera, no? Si mette uno in giacca e cravatta, no? E fa l'annunciatore, e poi si manda un gol. Peccato che esista solo nelle nostre fantasie. Ci si era voluto fare una buffonata del genere, guai, guai. Certo che non è una cosa fattibile così, no? Beh, comunque, un amico mio, ad un altro che conoscevamo, no? Che eravamo in servizio d'ambulanza insieme, gli ha fatto uno scherzo, gli ha masterizzato, un film, no? Che lui voleva, e a posto di questo film lui gli ha masterizzato un altro film proprio porno. E lui però credeva che lo doveva vedere, e questo film che non era porno, no? Che era un film, non mi ricordo che cos'era, di Steven Seagal, una cosa del genere, non Steven Seagal, di quell'altro che gli fa sempre il fa di richiesta. Natalino, quando sono di segnale? Cazzo, roba di radio. Fai. Ola, ola, ola, ola, ola. 8, è la radio più alta. E che appa? C'ho quell'antenna lì. Vedi che parla di più. Vedi che ha montato quell'antenna? L'ho montato quell'antenna lì, l'ho montata in alto, adesso lo sto provando. E gli appunti già. Ehi, il culo a radio è aumentato, non ti avevi avvisato? Ah, vabbè, tu lo senti in fatturazione. Io da qua lo sento. Ha aumentato anche la radio, me ne sono accorto dalla radio, infatti ho detto fai a vedere a bello segnale. 8 comunque, no? Un punto aumentato, un punto S, 6 di B. E chiama, vedi, questo è più lungo. Adesso vedi, anche il televisore vedo me. E vuol dire che ha qualcosa quella là. Io non c'è roba di campo. Ce l'hai sbattuta a terra e si è rotta la fibra dentro. Negativo, mai, mai, mai sbattuta a terra. Beh, non so cosa dici, bisogna controllare il capo. Sì, il capo, ma il suo capo non lo dovete mica così, il capo deve stare steso, bene. Già lo sai, già. E se ti fai se la rotta di male, oppure la rotolaccia non deve fare perché ti fa bobina. No, tutti giorno. Casi che ha messo giù il toro, no, lì. Allora. Gli ho detto, ma insomma è il padre della tua ragazza, si è incazzato. E lui dice, da Dio dove vai, come è diventato. E poco non mi butta fuori di casa pure. Ma un altro sarà diventato. Sempre, chiedo che come dava un abbigliolo di auro che. Eppure una ripresa con la telecamera bisogna farla, un filmato. Io mi metto già cacavato e faccio l'amministratore. Vi faremo vedere nostra signora di lui. E invece mettiamo la tutta. Adesso ascolto già, a Gianni lo facciamo. Io ho un film, diciamo che è un poliziesco. No, lui dimmo che. Ehi, no che è un poliziesco, no, un documentario, ripiacciono i documentari. Un documentario sui pesci. Ehi, vi faremo vedere i pesci. Cazzo, c'è la coscella, ma è già pronto questo. Oh, che ti dormi tu. O che magari lo fate vedere in casa, da poi. Da poi si canta mai denti, quella è quella. E il peggiore con i piedi, devo dire. Quello che gli piace la patatina. Ahi. vabbè, va. Ma sì, che non se lo fa. Poi io domando a vedere se lo fa. Domandi. E io offro io già. No, ci sono bambini. Ma dopo, da quella che non puoi vedere. Ah, da quella che ho fatto, no, e la vista si, la vista non mi interessa, la vista gli avrebbe fatto volentieri. È un trasmettitore TV, si vorrebbe. Aspettiamo un po'. Dice se la prenda va, ve l'abbiamo mandato a giro. Io ho visto sul quartiere, vedi, la patatina. Io, dire, ecco qui il documentario di nostra signora di lì. No, sarebbe ottimo, ma proprio l'avrei voluto fare proprio con asfreggio. Una corraccia anche. Una corroga di Nara. E poi il cazzo di Paolo Paolo che poi io ci duro, mamma mia ragazzi. Mi ha dovuto lì, ci tirerà un paese la prossima, vai sicuro che ti farà, eh. Io dico se ricoppia già messo al televisore, come direbbe un video di sta roba. ce ne vorrebbe uno, non proprio di quelli, tosti tosti, e proprio dici il più volgare possibile. Io non ho per problemi, il problema è come mandarlo. Certo, perché mi sta proprio sul scatto, è una cosa incredibile. Non guarda lì, non guarda questo, perché è volgare, non guarda quell'altro, perché è volgare, fare casa vuoi, mi cade qua, se tu la conoscessi, solo come la guardi, già ti viene una cosa sulla baitata. Magari in casa tua è pieno di pornografici, che No. Cartoni animati poi a ciapparmi. Io ti faccio cartoni animati, e poi però mi farò dare. No, la conosco bene. Ehi, no. Te l'ha detto no. Che cosa sto dicendo? Se santicca è santicca, proprio. Che stile caffè. Tu manda una battona lì. E tu, devi sentire, no, se per esempio c'è il marito, no? Il marito, se per esempio ti scappa anche, cosa ne so, a chi è che non scappa, per esempio, un baffanculo, no? Se per esempio non sento una parola così, tu sei in memoria. Carotto, Cioè io non dico una cosa, scappa, no? Ha detto è cosa, cioè quando è troppo beh, mi sa che è giunta l'ora, perché io sono mezzanotte meno 25, è giunta l'ora, ma va, io ti saluto, buonanotte e ce la risentiamo domani, dai. Buonanotte, dai, ti do io che portarli. Alle prossime, là. Ciao, buonanotte. Buonanotte anche da parte mia, Natale.